Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontarti. E ci siamo in diretta a Ristorante Convento in compagnia di due ragazze proprio carichissime. Siete carichissime, ragazze? Tanto cariche. C'è Stefania che è praticamente è vibrante da quanto è emozionata, vero? Sei emozionata, Stefania? Sì, parecchio. Parecchio? Sì, mette cosa mette questa? Non sembra di essere Grande Fratello qua dentro? Più o meno, nella saletta rossa, ve la ricordate? Il confessionale? È vero. Avete qualche peccato da confessare? Somiglia. Siamo al convento, quindi potete confessare i vostri peccati, ragazze. No, io ne ho talmente troppi che non saprei. Dici che 5 minuti per raccontarsi non bastano? Bisogna prendere 5 giorni di ferie? Assolutamente. Quindi è veramente una cosa troppo lunga da raccontare. Allora faremo la diretta peccaminosa di 5 giorni durante le vacanze di Natale di Lara. Ecco, quindi accettiamo già le prenotazioni. Lasciate stare prenotazioni per l'ultimo dell'anno, tutta roba lì. Prenotate per la diretta dei peccati di Lara. Ci sei te, Stefania? Sì. È tanto che conosci Lara? Da quando andavamo alle elementari. Ed è da allora che continua a commettere reati? Perché, allora, gli amici a casa non ci vedono, però Lara ha quell'aspetto proprio angelico, la classica ragazza bionda. Grazie. Giusto, Stefania, così? Esatto, sì. Sembra tutta piccolina, tranquillina. E invece? Ma no, dai, è tranquilla in realtà. È tranquilla. Questo è vostro? È un pan? No. Non ci appartiene. Peccato, perché lo vedrei bene a fine questo. Che fai? A lei? Avete dei fan, ragazzi. Grazie. Siete appena partite in radio, già avete i fan. Pensa, non conosciamo nessuno e già abbiamo qualche simpatia. Allora, si chiama potere occulto che hanno le belle ragazze. Ecco, non si riassume in un'altra parola che è anche un po' un ortaggio, però ecco, lasciamo agli altri la suspense di capire qual è il vostro potere. Tu hai capito, Stefania? Dimmi solo se l'hai capito. Sì. Ah, ok, va bene. Vediamo che Stefania è calorosissima, fuori c'è meno 5 quasi, e lei è in giacchettina, giusto? Di solito soffro il freddo, ma... E invece stasera sei calorosissima. Esatto, sì. Ok, allora una di voi è fidanzata e una è single. Esatto. Qual è quella fidanzata? Io. Stefania? Sì. Tanti anni? 12. 12? Cioè, dall'asilo praticamente? No, da quando avevo 16 anni. Ah, sempre lo stesso? Sì, sì. Quindi il fidanzato di una vita, sempre... Bellissimo, Lara, incredibile. Incredibile. Mentre Lara sta cercando la persona giusta. Forse questi qua stampati qua sul vetro potrebbero essere i ragazzi giusti? Ma insomma... No. Come deve essere il principe azzurro di Lara? Alto, possibilmente. Adesso... Oh, mi sto alzando tantissimo proprio... Poi? Biondo, mi si stanno schiarendo i capelli all'istante. Poi? Occhi azzurro, blu. Perfetto, cioè il principe azzurro. E poi? La persona che non esiste. Però tu hai 28 anni. Sì. E ancora ci credi al principe azzurro? Ma insomma, dopo le mie esperienze precedenti... State male? Sono tutti egoisti? Sì, questi maschi sono tutti egoisti? Un po' arroganti. Arroganti? L'hai trovato arrogante? Sì, purtroppo sì. C'era la sua canzone quest'estate che era perfetta. Te la ricordi, Stefania, la canzone? Vagamente. La sai canticchiare? No. No, immaginavo. Perché la ricordi vagamente, se no la canticchiavi, vero? Esatto, giusto. Invece, allora, tu li hai trovati arroganti? Sì, quindi... purtroppo una brutta avventura. Cavoli, Ma sai perché? Perché... non ti meritano, è per quello. Giusto, è quella la... È vero. Vedi, Stefania è stata fortunata, l'ha trovato subito. Tu invece hai bisogno di fare un... Più tempo. Insomma, hai più tempo per te in questa fase, dopo troverai quello giusto. Esatto, me la prendo con molta calma. Esatto. Mi guardo in giro. Conosci qua, conosci là, sondi. Esatto, a parte i coscritti qui alla festa. I coscritti sono fantastici, li vedo tutti un po'... Molto carichi. Quello col cappellino, il tuo coscritto? Sì, lui. Come si chiama? Andrea. Lo salutiamo? Sì, dai, se ci vede. Esatto, volete salutare qualche altro coscritto? Magari soprannomi, qualcosa? Facciamo una... Stefania, una carrellata, dai, dimmi un po' di nomi a caso dei coscritti. Nicola, ecco. Davide. Sono i suoi preferiti questi? No, no, o Nicola da... amici d'infanzia. Ah, gli amici d'infanzia, ma non vi chiamate con i soprannomi lì? Alcuni sì, alcuni altri però. No. Dai, ditemi quelli un po' più strani, quelli... Ciano. Il Ciano, ecco. Ciano. Ciano, Ciano Meraviglia, Ciano. Poi? Abbiamo il Rosso. Il Rosso, va bene, solo di sera, giusto? Giusto? Sì. Quando c'è lui c'è sempre bel tempo, dopo il giorno dopo, giusto? Esatto. Esatto. Poi? Poi Beatrice. Beatrice è il soprannome. Soprannome. Ah, non possiamo dirlo? È censurata? No, credo non lo abbia. Ah, non ce l'ha, non ce l'ha, non ce l'ha. Voi avete un soprannome? No, no. Io no. Nessuno delle due. Il nome anche breve, quindi. Quindi è facile, Lara. Lara. Lara. Lara rimane Lara. Lara, Stefania, Stefi, immagino. Esatto. Steffi. Attenzione, quello schiaccia le mani. Ah, questo è sempre il fan. È quello di prima. È accanito, è accanito. Sì. È quello che vi ha fatto il cuore, è quello che vi ha subito. Ma che sono qua. Che fa? Vuole entrare da sotto? Cioè, sta cercando di immergersi. A quanto pare. A quanto pare. Che storia. Ma nella vita cosa fate di bello? Allora, io sono educatrice di asilo nido. Oh, che bello, tutti i bimbi così che ti vogliono bene. Coccoloso. Ti abbracciano, maestra. Ce l'ha della maestra, vero? Sì. Tutta dolce. È così. E Stefania invece? Io invece mi sto per laureare nella magistrale in lettere, no. In questo momento ci sta per laureare? No. Okay. Mancano due esami e la tesi. Per diventare insegnante. E dopo sarai maestra o insegnante? Insegnante di sostegno, quello è il piano. Ci sostiene questa ragazza? Il piano, ma perché vuoi proprio essere di sostegno te? Sì. Proprio il tuo obiettivo, la tua missione è questa? Esatto, sì. Brava, un obiettivo e ci va proprio fino in fondo. Con il suo lavoro fa anche del bene? Sì. Brava. Decisamente. Ma che brave ragazze, tutte così brave a finire. Vero? Siamo così. Sì, cioè, siete dolci, brave. Sì. Bello, una rarità, una cosa. Ma che bello, che bello. E Natale? Natale saremo in famiglia. Siete in famiglia? Con i genitori e i nonni. Così, tutta la tombolata. No. Sì, una tombolata, un gioco a carte. Tutto proprio immerso in famiglia, proprio. Full immersion in family. Ma bene, si scia, no? Ci sono le piste? Sì. Quindi voi siete sciatrici anche? Anche pattinatrici. Sì. Ah, voi pattinatrici? Infatti, Stefania è pettinata con capelli raccolti, sembra proprio quelle le pattinatrici, quelle da. Che fanno? È arrivato? È lui. Allora, adesso. Facciamo entrare. Sì, finiamo la nostra intervista, poi a grande richiesta verrà. Perfetto. Come si chiama il DJ della vostra. Nicola. Nicola DJ. Sì. Nicola DJ. La prossima intervista sarà con Nicola DJ da Perfetto. Pienè. Perfetto. E intanto vi salutiamo. Vi fate un saluto a tutti gli ascoltatori? Ciao, grazie al convento e grazie alla serata. A tutti. Da parte di Stefania e Lara. Grandissime. Ciao.